respiro del vento sulla mia pelle. Correre a perdita senza voltarsi mai. Un lampo di luce illumina il buio. Non ci perderemo. Cercare una vita vera, senza più la paura e non poter vincere. Ci perderemo.